Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchiesi. Subito in apertura la Brexit con le parole shock di Johnson, che ha detto ieri: l'Unione Europea simile a Adolf Hitler. Durissime le reazioni, anche se i sondaggi in queste ore sono in bilico. Si riaccende la polemica sulla Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, e stavolta a infiammare gli animi sono le affermazioni shock dell'ex sindaco di Londra Boris Johnson, capofila dei sostenitori della Brexit. Ha paragonato l'Unione Europea al dittatore nazista Adolf Hitler. Intervistato dal Sunday Telegraph, Johnson ha affermato che l'Unione Europea persegue un obiettivo simile a quello di Hitler nella creazione di un sovrastato europeo. Dure le reazioni dell'entourage del premier conservatore Cameron, che Johnson vuole scalzare dalla guida del partito, e dei laburisti. E anche se l'esito del referendum del 23 giugno sull'Europa si conferma aperto, secondo le ultime rilevazioni, i sondaggi su Brexit iniziano a preoccupare seriamente David Cameron. Stando agli ultimi sondaggi su Brexit, infatti, i favorevoli all'uscita dall'Unione Europea avrebbero superato i contrari. Secondo l'agenzia ICM, 45% contro il 44% dei contrari, l'11% indeciso. Il margine è comunque minimo ed è allarme generale. Dopo la Banca d'Inghilterra e l'OCSE, anche il Fondo Monetario Internazionale mette in guardia contro i rischi per l'economia britannica, secondo la numero uno dell'FMI Christine Lagarde. Non si tratta soltanto di una questione interna, ma è una questione di interesse internazionale. Tutti si domandano quali sarebbero le conseguenze economiche della Brexit. Ma sono soprattutto i giovani che abbiamo intervistato a Londra a temerle. Dovremmo rimanere nell'Europa per i valori e i diritti umani, ma anche perché lavoro come ricercatrice. Io sono un ballerino contemporaneo e anche io devo muovermi liberamente. Free movements. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I contatti delle prossime ore saranno decisivi per capire se e in quale forma la Commissione europea presenterà qualche rilievo alla politica di bilancio italiana. Ma la prospettiva più plausibile sembra essere quella di un via libera alla flessibilità sul deficit, accompagnato però da un appunto sul debito che stenta a rientrare secondo i canoni stabiliti. Davanti a questi rilievi già presentati dall'Europa, l'Italia ha proposto le sue controdeduzioni, facendo presente fattori rilevanti che, a partire dalla deflazione, compromettono il pieno rispetto delle regole. Ora tocca dunque a Bruxelles valutare più o meno sufficienti le motivazioni italiane. Tutto è pronto a Vienna per il vertice sulla Libia, fortemente voluto da Italia e Stati Uniti, che punta ad avviare la cosiddetta fase 2 della stabilizzazione del paese nordafricano. Nella capitale viennese si riuniranno attorno al tavolo convocato e copresieduto dal segretario americano John Kerry e dal ministro degli esteri Gentiloni i paesi del formato di Roma, cioè i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, alcuni paesi europei della regione, organizzazione internazionali e regionali. Intanto la responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Mogherini, ha annunciato nei giorni scorsi che le unità navali dell'Unione Europea dell'operazione EUNAVFOR Med si preparano ad entrare nelle acque libiche per condurre attività di addestramento della Guardia Costiera. Google rischia una multa record di 3 miliardi di euro dalla Commissione Antitrust Europea già nelle prossime settimane, lo dice Sunday Telegraph, il britannico. Il caso, che si trascina ormai dalla fine del 2010, vede l'Unione Europea accusare Google di abuso di posizione dominante nel campo dei motori di ricerca su Internet a scapito della concorrenza. Alcune fonti vicine al dossier avrebbero detto al Telegraph che il watchdog dell'Unione Europea sarebbe pronto ormai ad annunciare la multa al più tardi nel mese di giugno, anche se ancora non è stato definito l'importo esatto. Questo può essere al massimo 6,6 miliardi di euro, vale a dire un decimo del fatturato annuale di Google. Torniamo questa sera con Europa 24, con Eurozone all'interno di Effetto Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.